Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata, incontro con Nikolaj Lilin, nel suo ultimo romanzo ambientato nel Caucaso, servizi segreti, criminali, ma anche un ragazzo musulmano e un cristiano che vivono come fratelli in una terra divisa. Chiamale se vuoi, graphic novel. Anche in Italia cresce la passione per i fumetti. Quando ho letto questo libro ho pensato, è un libro duro. Duro perché ci sono delle pagine veramente aspre, ma nello stesso tempo ho pensato è un libro illuminante perché attraverso un romanzo, attraverso la pura fiction, si capiscono molte cose del nostro anche recente passato vicino, mi riferisco a quanto successo nel Caucaso, in Cecenia. E si capiscono anche tante cose degli equilibri internazionali, della corruzione, del traffico di droga. Il libro si intitola Il serpente di Dio, l'ha scritto Nikolaj Lilin ed è il suo primo romanzo di pura fiction. Nikolaj Lilin diventò famoso con la sua opera prima, Educazione siberiana, poi aveva scritto appunto altri libri, però sempre prendendo spunto dalla sua esperienza personale, per esempio di quando aveva combattuto in Cecenia. Questa volta Nikolaj ha voluto fare un romanzo di pura fiction, inevitabilmente prendendo spunto da fatti che tu conosci, fatti, luoghi e situazioni che tu conosci. Perché hai deciso adesso di passare alla fiction? Ma perché dovevo fare questo passo se volevo rimanere all'interno della dimensione letteraria. Mi sento ormai uno scrittore confermato e secondo me dovevo, nei confronti soprattutto dei miei lettori, esibirmi anche con un romanzo vero e proprio. Anche se stranamente, come hai detto te, nonostante il fatto che questo è un romanzo di fiction, rappresenta molto la realtà, insomma. La realtà che tu conosci bene e che in parte hai vissuto, perché questo è un romanzo ambientato nel Caucaso. Ci sono diversi personaggi. Adesso, giusto per semplificare un po' la trama, c'è un uomo dei servizi segreti, che Konstantin, che si avvale di un criminale, Hassan, per numerosi traffici, soprattutto traffico di droga che viene tenuto nel Caucaso. Decide però di cambiare, insomma, traiettoria di questi traffici e decide di prendere un villaggio. Questa è la trama di massima. Ci sono, come dicevamo, diversi personaggi e soprattutto si capisce molto lo sfondo politico e sociale del Caucaso. Per esempio, si capisce come è nata la figura, l'immagine dei cosiddetti ribelli ceceni che noi in Italia, insomma, abbiamo seguito negli anni scorsi, perché a un certo punto tu scrivi, pur essendo una fiction e un romanzo, che Konstantin, quest'uomo dei servizi segreti, aveva costruito dei rapporti con i principali leader dei gruppi criminali di tutto il paese. Erano giovani confusi che cercavano di arricchirsi in fretta, affermandosi nel mondo dei fuorilegge, ma con l'aiuto di agenti come Konstantin stavano per diventare i guerrieri di Dio, senza rendersene conto. Quindi in realtà i cosiddetti ribelli ceceni, i ribelli islamici, in realtà non avevano niente a che vedere con la religione. All'inizio no, all'inizio soprattutto bisogna sapere che quando crollò l'Unione Sovietica non c'era la base né culturale né sociale politica che permetteva la nascita veloce degli estremismi basati sulla religione, per il semplice motivo che in Unione Sovietica la religione era spostata molto, insomma, sul personale. Non era in primo piano. Sì, e quindi il principale motivo per cui sono nate prime squadre, diciamo, organizzazioni estremiste cecene era l'indipendenza dalla Russia. Perché volevano essere indipendenti? Per un motivo valido, in realtà. Io capisco i ceceni, perché quando arrivò al potere presidente Yeltsin, che era un ladro, bugiardo, assassino, mafioso, comprato dalle multinazionali americane e, insomma, occidentali, è lì che sono nati tantissimi movimenti indipendentisti, non solo in Cecenia, ma anche in tanti altri punti di ex Unione Sovietica, anche all'interno della Federazione Russa stessa, che non accettavano questa vergognosa politica di Yeltsin. Quindi i primi movimenti ceceni erano indipendentisti, loro dicevano: noi vogliamo separarsi da questa politica schifosa di Cremlino. Volevano trovare una loro autonomia, però poi c'è stato un passo successivo in cui si è messo, come dire, il mantello religioso sui ribelli ceceni, per esempio, che sono diventati legati alla jihad islamica e quindi alla religione islamica. Questo è stato già una seconda fase della distruzione di unicità della Russia, soprattutto nella zona di Caucaso, perché gli occidentali, americani in particolare, erano interessati di allontanare i russi da Mar Caspio, perché Mar Caspio era un punto importante, era strategicamente per estrazione di gas, di petrolio, ma anche era vicino all'Iran. Ovviamente loro hanno utilizzato la carta islamica, perché essendo quelli che hanno creato il terrorismo islamico, cioè la CIA, Al-Qaeda è stata creata dalla CIA, allevata ormai questa informazione è abbastanza nota, si può insomma trovare, stessi americani lo ammettono. Il stesso nome di Al-Qaeda era il nome di campo di addestramento in Afghanistan. Ecco, quindi gli americani, tu dici, avevano interesse a che non ci dico, fosse. Cioè, sono sicuro, affermo, basandomi sulle cose sicure, sulle cose che hanno confermato tantissimi esperti di economia e di geopolitica, servizi segreti, lo stesso Snowden. L'America, attraverso Georgia, attraverso il paese che in quel momento era più indebolito, con il presidente Shevardnadze, loro hanno fatto la prima e significativa rivoluzione colorata, cosiddetta, totalmente pilotata da loro, e hanno trasformato Georgia in un punto dal quale sono partite tutte le operazioni economiche, politiche, di informazione e anche di servizi segreti. E lì, in queste operazioni, la droga è diventata una specie di moneta di scambio del mondo illegale, quindi loro attraverso la droga sono entrati nei accordi con organizzazioni criminali locali, non solo, certo, di ceceni, ma anche di russi, di Dagestan, insomma di Ossetia, e hanno cercato di corrompere questi uomini per piano piano farli arrivare all'idea di creazione del loro stato, di c'è stata una manipolazione, certo, insomma, una grossa manipolazione. Questo si capisce molto bene dal tuo romanzo, detto è un romanzo di fiction, però è illuminante proprio dal punto di vista di alcune dinamiche che sono accadute e che ancora accadono nel Caucaso. Veniamo poi ai personaggi. Questo Konstantin, uomo dei servizi segreti, un uomo solitario, uno che non ha amici, è veramente sembra l'esempio, insomma, del male, quasi del male assoluto, anche se tu in tutti i personaggi poi cerchi di trovare un aspetto umano anche ai cosiddetti cattivi con la C maiuscola. Perché? Ma perché sono gli uomini. Uomini cattivi completamente, totalmente non esistono. La cattiveria è dovuta a qualcosa che persone subiscono nella vita, è una reazione, una risposta al mondo per qualcosa che il mondo le ha provocato, spesso nell'infanzia. Io nell'ambito dei servizi segreti ho vissuto molto, ho conosciuto tanti spie di diversi paesi, e sono persone infelici, sono persone che non hanno avuto una vita normale. E quindi ognuno ha la sua storia particolare, qualcuno magari maltrattato dai genitori. Infatti emerge proprio in questo romanzo, perché anche, non so, Hassan, il criminale appunto che aiuta Konstantin dei servizi segreti, addirittura ha ucciso il suo miglior amico, però a sua volta ha dei momenti come di lucidità, quasi di pentimento. A sua volta da piccolo è stato un bambino maltrattato, insomma. Sì, Hassan rappresenta per me un stereotipo di terrorista ceceno, che io li ho conosciuti molti, li ho arrestati, diversi purtroppo li ho dovuti anche sparare, però quelli vivi con cui sono riuscito a parlare, tutti raccontavano la stessa storia, nessuno di loro odiava la Russia perché i russi sono i russi, per la cultura, odiavano la Russia perché si sono sentiti traditi. Perché la politica di Yeltsin, la sua attività economica, oppure anti-economica, come chiamarla, loro hanno costretto queste persone di diventare nemici del popolo, perché Yeltsin è la politica americana in genere, politica anglosassone, quando, cioè, gli americani si basano sulla politica anglosassone, non so, WASP, White English Saxon Protestants, cioè loro sono quelli che arrivano, dividono, prendono parte di uno e poi distruggono il paese. Quindi Hassan, come tanti terroristi ceceni, lui non odiava i russi, lui odiava il sistema che lo ha fatto diventare nemico. Lui sognava, io nel libro racconto che lui sognava di essere militare russo, ma un giorno, quando cominciò la guerra, lui aveva capito che lui appartiene a un'etnia che il governo centrale ha definito terrorista. Quando parli, Nicolai, usi delle espressioni molto, molto dure, molto forti. Anche nel libro, per esempio, ci sono anche delle scene crude di violenza. Sì. Prima dicevi, per esempio, a me è capitato di dover sparare, di dover uccidere dei terroristi ceceni. Le prime volte che anch'io sentivo queste frasi da te rimanevo un po' spiazzata. Poi devo dire che leggendo i libri ho capito. Cioè, ho capito che fa parte di un tuo passato, di un tuo vissuto e che per te è quasi naturale, normale parlare con questa appunto naturalezza di quelle cose lì. Però non credi che possa fare, ecco, un effetto un po' strano a sì, noi che ti ascoltiamo? Bisogna fate bene ascoltare e capire che non siete, come dire, non si vive solo così come si vive qua in Italia. Cioè, il mondo fatto di diverse situazioni. Qua ragazze di 18 anni ancora giocano a PlayStation, io a 18 anni avevo già un fucile da cecchino e sparavo già la gente, insomma, dei terroristi, intendo, in montagna. A 20 anni, quando sono uscito, avevo già 3 decorazioni sul campo, 3 ferite, ero già sordo orecchio sinistro, mi hanno già sparato addosso, quindi avevo già vissuto un'esperienza. Quello che anche i vostri nonni, che hanno vissuto la guerra, seconda guerra mondiale, hanno vissuto stesse cose. Io nel mio libro, in tutti i miei libri, io quando racconto i fatti, io voglio raccontare i fatti veri, così come si vivono. Cioè, quando io spiego come muore una persona, io lo faccio senza grottesco, senza io vi faccio sentire veramente l'odore di carne bruciata, di ultimi attimi di una persona, cosa vede, che può essere nemico, terrorista. Io quando vedevo morire i terroristi ceceni o arabi o di altre nazionalità, che lì in Cecenia li beccavamo tutti quanti, erano tutti là, però quando vedi questo giovane uomo morire, io mi avvicinavo, gli tenevo un po' la testa, gli facevo respirare almeno ultimi respiri, perché non lo vedi più come nemico, lo vedi come un umano che muore, ti dispiace, insieme a lui muore una parte di te, perché sei tu che sei coinvolto nella sua morte. E io nel libro per questo voglio raccontare questi particolari crudi e brutti, perché la gente deve capire che la guerra, la violenza non è musichetta e sorrisi e scherzi come nei film americani, queste cazzate che guardano i nostri giovani. Non è le guerre che si giocano sui PlayStation, dove si sgozzano, ammazzano i nemici a manette e poi si va a mangiare il panino. Cioè, la guerra è un dolore, muore un umano, uno fatto di carne e ossa come te, che ha la storia, che ha genitori, che ha i suoi ragioni per stare al mondo, i suoi diritti. E se tu sei arrivato a fare questa cosa, vuol dire che c'è qualcosa che non è andato in modo giusto, né con te né con lui. E bisogna fermarsi e pensare, farsi domande e disperare per questa cosa. Tornando proprio alla trama del romanzo, appunto, quest'uomo dei servizi segreti vuole conquistare, vuole prendere il possesso di questo villaggio perché strategicamente gli interessa. Però in questo villaggio c'è una strana pace, qui la possiamo definire veramente così, convivenza pacifica fra musulmani e cristiani che hanno un patto preciso, e ci sono questi due ragazzini, Andrei e Ismail, che pur appartenendo a due religioni diverse si comportano come se fossero, insomma, fratelli, e cercano in tutti i modi di impedire che il loro villaggio venga conquistato. In questi due personaggi hai voluto un po', come dire, incarnare l'idea del bene, della possibilità che il bene a volte possa realmente farcela. Sì, il bene e la condivisione, che io credo, io ho visto nella mia esperienza, ho visto diverse guerre, perché dopo Cecenia sono stato, ho lavorato come un operatore di antiterrorismo in giro per il mondo. Io sono stato in Palestina, poi sono andato in Iraq, in Afghanistan, sono stato un po' in diversi posti per varie operazioni locali. E tornando alla Cecenia, lì ho imparato quello che poi si è confermato nel mio percorso in giro per altre guerre nel mondo. Io ho capito che la guerra è possibile in una società che ha perso la capacità di condividere. Condividere con onestà, con semplicità, tutto. Condividere la vita, il lavoro, condividere momenti di felicità, momenti di tristezza, condividere la cultura e soprattutto condividere la diversità. Oggi la cultura anglosassone, cultura americana, che noi oggi, di cui noi oggi siamo vittime, insegna che la diversità è un male. Oggi, ad esempio, in America vanificano, se guardi i film, se guardi le cose, non fanno vedere, non raccontano la vita di quei 50 milioni di americani che non hanno diritto all'assicurazione medica, quelli che ogni giorno possono crepare se gli succede qualcosa, e crepano. È molto forte il tuo spirito anti-americano. Non è anti-americano, io amo americani, sono stato anche fidanzato con un americano e ho vissuto lì per un breve periodo di tempo. Sono contro la politica americana. Ma tu hai nostalgia dell'Unione Sovietica? Moltissima. Non per nostalgia, per simbolismi, per comunismo, perché comunismo nella mia famiglia ha sterminato 17 persone. Io ho nostalgia per la condivisione, per come noi vivevamo tutti insieme. Io ho nostalgia per un grande paese dove tu prendevi un biglietto da un punto A andavi a punto B e nessuno ti sputava in faccia, nessuno ti chiamava russo di merda, devi morire, come succede oggi con ucraini. Cioè oggi io devo vivere devo essere minacciato dai estremisti ucraini essendo in Italia, ma siamo veramente fuori di testa. Un'ultima domanda, Nicolai, a proposito appunto delle minacce che questi estremisti, questi nazisti ucraini costantemente continuano a fare, questa cosa ti spaventa? Preferisci lasciar correre? Che atteggiamento hai nei confronti? Ma io innanzitutto confido molto nello Stato italiano, perché devo dire il bene che noi abbiamo in Italia è che gli uomini dello Stato sono persone oneste, sono persone umane, fanno il loro lavoro, il loro dovere, perché per loro non è un lavoro, è un dovere. Che un poliziotto, uno che va a rischiare la propria vita per 1.400 euro al mese. Guardate che questa, cioè bisogna amare la propria patria per fare queste cose. E io conosco tanti poliziotti, anche questi che aiutano me in questa fase non semplice, quelli che mi accompagnano quando io vado agli eventi pubblici. Questa gente lo fa per una miseria, lo fa non perché vuole soldi, lo fa perché veramente ci crede. Queste minacce di questi nazionalisti ucraini, adesso vediamo, questa gente oggi va monitorata. E quindi io con la Digos devo dire che la Digos non è un'organizzazione, non è gente di asilo, cioè non sono sprovveduti, sono professionisti di alto livello, e ovviamente con queste minacce loro mi hanno aiutato tantissimo. Ti senti insomma protetto? Sono protettissimo, io sono padre di due figlie, se non sarei sicuro io non mi permetterei neanche queste esibizioni in pubblico, parlare alla radio e tutto quanto. Sì, io non sarei sicuro che queste minacce sono insomma solo espressione di malessere e frustrazione di una banda di nazisti presente qua, che vorrebbe insomma in qualche modo minacciare con la propria presenza la nostra pace, la nostra situazione. Grazie Nicolai Lilin. Ora in libreria, lo ricordiamo, con Il Serpente di Dio, pubblicato da Einaudi. Un romanzo, vi ho detto, duro, ci sono delle parti anche crude, ma che secondo me va letto perché fa capire tante cose della storia del Caucaso, dei traffici, della corruzione e dei giochi giochi di potere internazionale che sono sopra le nostre teste. Grazie Nicolai. Grazie a voi. E beh, dopo questa intervista intensa, forte, a Nicolai Lilin, parliamo di graphic novel, un genere che negli ultimi anni sta vivendo in Italia, come dire, una fase di successo. Vediamo sempre più graphic novel nelle librerie italiane, oltre che nelle classiche, naturalmente, fumetterie o nelle edicole. Non è facile analizzare questo mondo anche a livello di copie vendute, perché appunto ci sono diversi luoghi dove si vendono. Le fumetterie, per esempio, non sono rilevate da chi normalmente fa indagini di mercato sulla vendita di libri. Però l'AIE, l'Associazione Editori, ha analizzato per la prima volta il fenomeno con un rapporto datato 2013. Allora, che cosa emerge? Emerge che nel 2012 in Italia sono stati pubblicati circa 1700 titoli di opere classificate come graphic novel, circa il 10% sul totale della narrativa. Allora, l'andamento delle vendite è sì in flessione anche in questo caso, però meno del mercato dell'editoria. Insomma, i fumetti graphic novel tutto sommato reggono. Nella top 30 dei più venduti del 2012, i primi due posti erano occupati da Zero Calcare con La profezia dell'armadillo e Un polpo alla gola. Zero Calcare, insomma, è un punto di riferimento per chi ama il genere, è nato un po' sul web con un blog in cui posta delle cose autobiografiche e poi nel 2012 appunto ha iniziato a pubblicare anche delle graphic novel cartacee. Allora, Zero Calcare ha già pubblicato 5 romanzi a fumetti e in autunno tornerà in libreria con una nuova graphic. Per capire qualcosa in più di questa nuova graphic, di questo nuovo progetto e un po' del mondo della graphic novel, Antonella Ferrara ha intervistato appunto Zero Calcare. È una storia che parte dalla generazione di mia nonna e attraversa quella di mia madre, e cioè come io ho vissuto gli scampoli di quella storia, le cose che non sapevo e le cose che mi sono state raccontate nel corso degli anni, che è una storia in realtà molto rocambolesca in qualche modo. Nel tuo blog a fumetti darai delle anticipazioni? Sì, siccome il blog in questo momento sta un po' in stand-by, perché questa cosa mi richiede comunque un po' di concentrazione per non lasciarlo morire per 3 mesi, mi piaceva l'idea di metterci ogni tanto dei pezzi di quella storia ogni lunedì o cose così. Dal G8 di Genova agli elementi autobiografici, i temi delle tue strisce sono abbastanza variabili. Sì, tra il blog, i libri, eccetera, riesco a coprire un po' tutta quella che è la mia biografia, che le persone sono fatte di tante cose. Io ho degli aspetti che sono proprio nerd, però ho anche degli aspetti invece legati appunto al mondo da cui provengo, dei centri sociali. Insomma, mi piace poter spaziare su cose diverse. Qual è in generale il rapporto tra il tuo blog e i libri? In realtà il blog a me mi serve per raccontare delle robe brevi, meno intime, nel senso delle cose in cui si possono riconoscere anche il lettore occasionale che passa sul blog, eccetera. Il libro ha più pagine a disposizione proprio per poter approfondire e per poter raccontare delle cose anche con uno spessore un po' diverso di solito. Chi è il pubblico di questo genere letterario? Io devo dire che nel mio caso specifico è un pubblico super eterogeneo, nel senso che spesso uno ha l'idea che il pubblico del fumetto è un pubblico giovane, e questa cosa ha segato le gambe del fumetto per un sacco di anni perché l'ha schiacciato su quella cosa. In realtà non è vero, in realtà se uno prova a fare dei fumetti anche per persone diverse, persone diverse se lo leggono. L'Italia ha dato i Natali a Ugo Pratt, che con Curzio Maltese ha inventato il romanzo a fumetti, ma rispetto agli altri paesi non c'è un ritardo nella valorizzazione di questo genere letterario? Sì, c'è stato un ritardo enorme, in realtà proprio perché secondo me il fumetto è stato spesso inteso proprio come un genere letterario, mentre in verità io l'ho sempre concepito più come un linguaggio, nel senso che i fumetti possono essere gialli, noir, commedie, eccetera, e quindi essere tarati anche su persone diverse. In altri paesi questa cosa è assunta da tantissimo tempo, dentro il reparto noir delle librerie in Francia ci troviamo anche i fumetti, in Italia ci siamo arrivati tardi, ma mi sembra che in verità negli ultimi anni stiamo recuperando un sacco. Grazie anche alle pubblicazioni Becco Giallo sui segreti di Stato, sulla mafia, il fumetto si è caricato di significati nuovi. Insomma, è un genere che può trasformarsi in strumento di comprensione della realtà, secondo te? Secondo me un sacco, nel senso soprattutto per affrontare un sacco di temi che faticano a essere interessanti per molte persone, perché magari contengono degli elementi molto tecnici. Cioè, secondo me Becco Giallo in questo senso, con alcuni suoi lavori, ha fatto delle cose, delle operazioni molto buone, insomma. E prima di chiudere, a proposito di fumetti, vi ricordo che a partire da ieri, ogni venerdì, con Il Sole 24 Ore, potete trovare i capolavori introvabili della storia del fumetto americano, DC Comics Story. Escono appunto ogni venerdì, rimangono in edicola poi comunque tutti gli altri giorni della settimana. Fra queste avventure, diciamo ormai introvabili, ci sono quelle di Superman, Batman, Freccia Verde, Lanterna Verde, Flash, Wonder Woman e tutta la Justice League America. L'appuntamento è dunque in edicola ogni venerdì con Il Sole 24 Ore per gli appassionati di fumetti. Anche per oggi è tutto, grazie in regia a Pietro Lacorte. Vi ricordo che ci trovate su Twitter come Ale Teddina, naturalmente su Facebook e su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.